che chiama Chiesa fino a dopo. Non è mai andata lì. Ciao Franco, buonasera. Buonasera a voi. Come ti sto arrivando? Sempre uguale o più basso con questa antenna? Non lo so come mi arrivavi, ho anche l'apparato sopra la mia testa, quindi non lo vedevo. Poi non sapevo cosa fare, oggi mi sono messo a fare altri esperimenti. Questa praticamente è sempre uguale, è tipo la Grid Master, però è senza né condensatore e né adattatore di impedenza. Dai. Sembra che arrivi più bene qua. Bisognerebbe provare qualcuno più lontano, tipo Claudio. Tu sei oltre 9.30 qua, mi sa che anche prima eri così. Sì, vabbè, ma siamo vicini. Ed è anche più corta, questa mi sa che è 2.60. Un braccio da 2.60 e l'altro è da 2.40 mi sembra. Comunque dai, meno di 5 metri penso che sia. Su 5 metri, dai. Ma perché un dipolo stai usando? Sempre verticale però praticamente è tipo la grimace, però non c'ha né condensatore né tubo di impedenza, c'ha solo la bobina sotto e poi il filo arriva a 2.60 e poi parte con il filo di luce che è su 2.40. Ho capito. Per provarla però mi serve qualcuno di più distante. Adesso vabbè, liscio liscio perché è collegata direttamente all'accordatore, non passa nell'amplificatore, no. Questa. Aspetta un po', mi puoi attenuare? Sì, non ho tutta. No, abbassarmi per esempio a, non so, a 7, 8, 9 di segnale. E poi cambio antenna, vedete. Ci sei? Riesci a attenuarmi? 1, 2, 3, prova. A Santiago 9 ti ho messo. Adesso cambio antenna, Questa è l'altra, se devi accordo. Più o meno così, dai. Com'è? L'altra, prova. Questa è la seconda. Può fare la prima. Questa è più forte? No, sei più basso. Ci rende meglio quell'altra? Sì, qua sì. Aspetta, di nuovo, quanto perdo? Santiago 8, sì. Adesso rimetto l'altra. Ok, così è l'altra, di nuovo la prima. Ehi. Quindi rende meglio questa qua, caspita. Pare che sia così. Dovresti... Come alcuni campionati italiani e africani. Chiederlo a qualcuno che è lontano, là, così lo vede meglio il segnale. Vabbè, ma già così c'è un'idea, là. Certo, conta, quella là è 2 metri più lunga come antenna e non è che sia più performante di questa. Ma adesso vediamo, dai. Un buon spunto per... E poi questa che è più semplice perché non c'è nulla, fa una saldatura e boh. Sul progetto era in corto, su in alto, dove c'era giuntura tra il cavo elettrico e il cavo coassiale. Ho provato e niente, ho provato invece a togliere il corto e va meglio così. Sembra che arrivi meglio che di radio. Tutta la chiesa. Addirittura, spero che forse c'è qualcuno sotto. Cuomani. Aspetta, scusa, un attimo di bianco, mi stanno chiamando in verticale. Natalino Penisrella. Zebra. Udusa. Rogazzo. Zebra. Cuomane. Luca. Via. Tu ti ricordi il mio segnale com'era lì giù? Vabbè, possiamo fare le prove anche con te, se mi attenui. Ah, sta arrivando, sì, c'è il più, del più 30 e mezzo, tra l'altro è il più. Adesso cambio l'antenna, Vai. Guarda questa. Com'è? Questa è davanti al più. Quindi più forte o meno? Meno. Allora, quindi funziona meglio quella semplice, dai. Capo. Attento zebra. Da me passa da 7 a 9.20. Drogato. Aspetta però, qual è il 7 e qual è il 9.20? Buonasera. Buonasera, 9.20 è questa chiaramente. Questa è l'accordo. Così è, questa è la numero 1, l'antenna. Adesso cambio. E questa è la 2. Ah, aspetta, però, non si può fare un paragone, però. Sto sbagliando tutto, dai. Ma questa 6-7 neanche. 7 è quando moduli, se no 6-6. Ma non mi ricordavo una cosa. L'altra è appoggiata l'antenna sopra l'altra, così, e mette di traverso praticamente. No? La prova non si può fare così, dai. Vabbè, risa. E allora? Ma vuoi parlare con uno? Rogazzo! Guarda che ti mandicano i miei. Dove sei tu? A casa. Signore e signori, cocco. Ciucciu! A me mi sembra che cuocuomane questo Luca, cosa ne dici Antu? Senti Natali. Ah, è Natalino, Alfa Q1. Ah, Antonio caro caro, tu si chiami Carmine Irvi. Ma Natalino cuocuomane. Vai, drogato! Ah, mi senti Natalino? Io lo sento basso, Natalino Antu. Basso? Ma sarà sempre 1,60, 1,65. Vabbè, ma io non mi supera. No, veramente sono 1,70, basso in lui, diglielo, a quel drogato del latte dolce. Oggi ho fatto la terza dose, mamma mia, buona rita, Antu, su me la terza dose, mamma mia, buona rita. Sì, vai, dimmi. No, il bacio mi fa male adesso, Lo volevo fare al bacio destro, cioè quello mi serve. Venga, fate le seghe. E allora? Oi. Cazzo, se mi fa male il braccio, è proprio roba. Però la verità, no, la puntura non l'ho sentita, è stata molto brava, Se è brava a prendere punture, è brava a prendere altro. Ma, dimmi una cosa, ma ti hanno fatto, cosa hai fatto tu per primo di vaccino? Ho fatto il 2 Pfizer e Moderna. Ah, quindi è vero che stanno facendo il Moderna quelli che hanno fatto Pfizer? E si conferma. Adesso c'ho il Green Pass, diesel però è il mio, non è super. Ah, non ce l'hai il booster? No, il diesel. Bene. Tanto, quanto vedi se sento la baracchino? 10 anni? No, 10 no, ma qualche cosa. Bisogna far andare questi baracchini. Comunque, lo smetto si è ripreso, Antu. Non mi ha fatto più quel problema. Sale tranquillamente, non è a posto adesso. Hai visto? Molte volte io invece poco fa mi ho acceso questo e non riceve una mazza. Non saliva nulla, né smite, nulla, giusto, fritto, invece poi si è ripreso. Buongiorno. Forse perché come l'affermo, no? Guarda, forse c'è qualcuno sotto. Io sono, buongiorno. Buongiorno, avanti. Buongiorno. Il re di Porto Torre, sì, io. Buonasera di nuovo. Ebbene, oggi è tutto a posto. Buon anno che non siamo sentiti nemmeno. Buon anno a tutti, buon anno. Allora, che si dice? Ragazzi, io sto male, sto veramente male. Sarà che mi raggiungo davvero di cavolta? No, può essere. Noi siamo in tre a casa, tutti e tre. Tutti e tre presi? Due sicuri, dai, ma alla fine tutti e tre sicuramente. Adesso vediamo il 5, va. Abbiamo il tampone. Ecco, che sintomi? Ah, quasi nulla. Sembra un piccolo raffreddore, mi. Influenza, anche io ce l'ho fra. Mi sembra che questione di tempo ci beccherà tutti quanti, mi. Purtroppo quest'anno è andata così. Ma chi si sono vaccinati ha detto di no. Se te la diamo tre vaccini ha pigliato il gomito. Tu hai pigliato il gomito e ha fatto canna. E in casa da uno all'altro ce l'abbiamo passato nel giro di 3 giorni di distanza uno dall'altro. Cosa fa? Nel giro di 3 giorni da uno all'altro subito. È molto aggressiva come... come si dice? Come virus, però non lascia, non dà molti problemi. No, problemi non ne ha, però è un sintomo influenzale, ma il COVID non ve lo dava. Luca, stai attento ai cicli, al bar, perché l'aria l'ha presa al lavoro. Non pensa che sei vaccinato, non ti tocca. Ma il vaccino non ti rende immune, buonasera, Fla, non ti rende immune da prendertelo. Il vaccino praticamente non ti consente di non andare in rianimazione, capito? Tutto lì, ma non sei immune a non prendertelo. Io beh, questo non prende i polmoni, comunque sempre il COVID, però vabbè, lasciamo perdere. Riprendete, rimango in ascolto, io ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ciao Cla, dai, speriamo bene, dai. Andiamo a dire, Porto Torres, sto provando un'altra antenna, com'è il segnale? Più basso di prima? piedi brutto. Sì, a due qua, No, liscio, però intendo, non ho niente adesso. Forse tu sei abituato a sentirmi sempre spumeggiante, dai. Arrivi a due qua. Adesso sono... non è attaccata l'antenna all'alfa lì, ma dai, aspetta che provo, dai. Eugenio, amico mio, riporto a Torres. Ciao, Lucchino, amico mio di Sciacciari. E allora, buonasera, auguroni anche a te. Auguroni, auguroni. A tu, e beh, quasi inventi, saldando sì. Ehi Lu, dammi un attimo, ciao Clark, sto facendo delle cose, rimango un attimo in ascolto, dai. Ciao, ciao a tutti, ciao. No, Claudio Buruga, vabbè, mi sono spostato io, ciao Claudio. La gente fa il Covid, ha contagiato l'aria, con tre vaccini, quindi stai attento ai circoli, a chi frequenti e ai bar soprattutto, perché l'aria l'ha preso al bar. Ehi Clark, dove ti dica, cosa vuoi che ti dica? Non fatti dimostrare attento così per mamma. Vabbè, paghi seguissi i muloni, ma per carità. Ehi, io sto facendo stare attento. Stai è vaccinata e l'ha preso al lavoro, quindi, capito? Perché c'è un po' di gente miserabile che dice che è vaccinata, vaccina vaccinata, con dei passi falsi. Dove qua? Forse li scoprono, passano guai, capito? Passano guai. Adesso devi stare in quarantena, così. Oh Cla, ma come sta tua figlia? No, non ce n'è quarantena, non c'è quarantena, si è vaccinato in quarantena, cioè, è che rimane a casa per stare un po' riservato, ma no, non è che devi stare in quarantena, l'aria è malattia, cosa vuoi fare? Vabbè, dai, ci sentiamo ragazzi, non voglio parlare, ciao a tutti. Ciao. Ehi, andiamo, era. Oh, yeah. Aspetta, ma non penso che sia Covid. Come lo fuggi l'altro giorno, finta di Zico Manzano, a un freddo, come mamma. E da lì è partita anche mia figlia oggi, è tornata con sintomi di freddo, un po' questa influenza leggera, si è misurata la febbre 37, adesso ieri non ne aveva, ieri sera neanche oggi, io febbre non ne ho, però i sintomi sono quelli, bisogna stare a casa, bisogna riguardarsi, capito? Quindi stai attento, fatti un tampone, secondo me ti conviene, perché ho fatto stamattina e l'aria è risultata positiva, quindi. Ma non ha i sintomi forti, cioè non è allettata? No, non ti allettano, già, un po' di dolori, solito è questa cazzo di Omicron, come ti cazzo di chiama, è un'influenza, mi capito, però la chiamano Covid, non fanno dolore. È una variante del Covid, quindi bisogna stare attenti, anche perché è molto, ma molto aggressiva. Mia figlia c'ha un bel dolore al collo, alla schiena, alle braccia, e poi tosse, capito, queste cose così, l'orcedine. Tutto qua. Io ho un po' di mal di gola e basta. Mi fa male un po' il petto, ma non si sintomo niente. Fatelo, perché poi è ancora peggio, fatelo, non costa nulla. Vai in farmacia, rubate e ti fai un tampone veloce, di quei tamponi rapidi, e ti danno l'esito subito, sei sicuro, negativo, a posto, allora è un sintomo influenzale, dolori, freddura, però fatelo, perché anche mia figlia era così. Allora vado, è andata positiva, vai, non ci vuole niente. Intanto dovevo andare comunque, ma poi lo vediamo un po'. Vai, e ti togli il dubbio, capito? Va bene, dai, divertite, bacio a tutti, arrivederci. Ehi, vabbè, così guarda come sono così il segnale. Ci andato la giornata la notte, a 7 ci adesso. E con l'altra antenna come ti arrivavo i giorni scorsi, ti ricordi? Sul mio segnale? I giorni scorsi non ti ho sentito, fra, non c'ero a casa. Più o meno il mio segnale non l'hai memorizzato, dai. Vediamo Claudio. Noi sei 9.5. Cambia dall'altra antenna che usavo fino a ieri, dai. Dipende, fra, se sei agganciato no, se sei liscio sì. No, adesso sono agganciato. Agganciato è lo stesso segnale per me. Non cambia niente, questa è proprio ancora più semplice l'antenna. Due mesi di vino brutto, No, non cambia niente qua, 9.5 eri agganciato, 9.5 sì. Ottimo. No, qua già è cambiato, arrivava a 2, adesso arriva a 7. Sì, no, io il rapporto volevo fare con l'altra antenna, non attaccato o staccato, a parità di potenza, però con l'antenna che usavo fino a ieri, dai. Perché l'hai staccata? Che? Perché l'hai staccata? No, ne ho provato un'altra, non sapevo cosa fare a casa, allora oggi ne ho fatta un'altra più semplice, tipo Bimate, però non ha né bobina, né adattatore di impedenza e neanche su condensatore, dai, proprio semplice semplice, sembra un dipolo verticale. Ho capito, ma non lo so cosa fa. Sfruttato un po' di piazza, vedi come cambiamo. Ma una canna a pesca, quindi ne ho due, quindi tolgo una e infilo l'altra. Buonasera, un genio. Buonasera, chi è? Mario Porto Torres. Ciao Mario, buonasera, ti ho sentito così sfuggita, non ti avevo riconosciuto. Buonasera Mario, allora come fa? Ehi, sembra che non mi saluto qualcuno sotto, non c'è male, va, siamo qui. Anche quest'anno è cominciato e quindi nessun problema per adesso. Vediamo come si svolgono le situazioni. Sono in compagnia di Franco, Claudio che non c'è, mi sa tanto si è allontanato, e Luca che sicuramente non senti perché lo sento basso anch'io, e poi c'era fino avanti fra. Mario, ho capito, Mario mi senti? Certo che ti sento, benissimo. Ho capito, certo che ti sento, che ti ascolto un po' più basso di Eugenio. Ma a me arrivi quasi a 9, la radio 5 non è potentissima, però è comprensibilissima. Vabbè, io adesso sono un po' aiutato, dai, un po' di vitamine. Vabbè, ti sento, comunque. Prima ovviamente quando mi sento non ti sentivo, Stavo ascoltando un paio di passaggi prima. Però ti sento bene adesso, vai benissimo. Poi capa, dai. Vediamo un po' se c'è rimasto Luca, poi che c'era Natalino. Chi vuole riprendere, avanti. Non ne ha voglia nessuno. Avanti, oggi. Sì. Allora Mario, auguroni, cosa hai fatto a Capuallo, niente? Bella domanda, è una domanda di riserva? Sì, come l'hai passato il Capuallo? No, lascia stare, guarda, no, vabbè, tutto sommato bene, come gli altri anni, alla mia età cosa lo vuoi passare? Tricche tracche, caramelle, cioccolatini, no, 8:30 a letto, proprio guarda da urlo. No, addirittura. Che ci devi fare, scusa? È così, ma poi ti presente che io non conosco nessun produttore, e perciò non è che c'è da stare molto allegri, parenti abbiamo, diciamo così, beneficiato dappertutto, e quei parenti si sa che così, e quindi niente di particolare, guarda, ma va benissimo, nessun problema per adesso, finché c'è vita c'è speranza. Beh certo, mai sopra la speranza. Va bene, mi stavo dicendo novità, sceriffo sulla piazza, l'antenna a casa, sì? Allora, no, dunque io gli avevo dato una boomerang, però probabilmente adesso la sta, non so, testando, modificando, so che aveva detto che la metteva, però è già un po' che non lo vedo, quindi non so niente ancora, anche perché comunque se l'avesse messa, lo sentirei, visto che siamo a 3 metri l'uno dall'altro. Non ho capito. Va bene. Riprendite la fra. Capa, lo sapete, siete in zone diverse voi due. Io e Mario? Capa. Sì. Lui è in via Sassari, io sono all'ingresso di Porto Torres. Quindi sei più vicino tu, dai, sei più favorevole. Diciamo di sì. Beh, no, si vede che c'è un po' di differenza, dai, vabbè. Forse anche l'apparecchio è diverso, l'apparato, dai. Riprendo io, Sì, ma proprio sono due stazioni diverse, tieni presente anche l'antenna soprattutto. E io ho una, diciamo così, un'antenna da terrazzo montata sul tetto. Quindi piccolina, con 3 radialini, insomma, lascia il tempo che trova. E lui invece ha una bella antenna rispetto alla mia, quindi le condizioni sono diverse, oltre ad essere, diciamo, più vicino di un paio di chilometri, se non erro 2-3 chilometri più o meno. Positivo, dai. No, comunque riesco ancora a tirarti fuori, se non si alza il QRM vi tiro fuori bene, dai. poi aggiungiamo che anch'io sono messo male, la mia antenna è sulla finestra, lo stesso, anche la mia non è sul tetto, alla parte opposta di Porto Torre, quindi più di così, anzi meno di così non si può. Avanti, che c'è? Non posso rientrare Natalino, Natalino ci sei? Sono rientrato. Li senti gli amici di Porto Torres? Aspetta, mi stanno telefonando. Io se poco entra di... come si dice? Nel microfono, il telefonino. Avanti, oggi. Sì, ho sentito anch'io. Fuori gamba. Ti stavo dicendo, ma ti stavo dicendo, ti voglio una cosa veloce, mi sono dimenticato. Oh, mamma. A me? A te, mi sono dimenticato. L'età, Eugenio. Ma, io a volte non mi vengono neanche i nomi, figurati. Con tutto in mezzo. E poi adesso che hai preso anche il Covid? No, spero che non sia Covid, ma per un leggero mal di gola, quando mai? Anch'io sono così, purtroppo prende così, un leggero mal di gola sembra, all'apparenza. Vabbè, sono entrato nel discorso, io non sono per i vaccinati, per cui, vabbè, la penso in un altro modo, però sì, c'è frequento, dai, non ti preoccupare, lo vado a ridere, basta con niente, dai, così fortifica, dicono. Ma quando mai, va? Non c'è problema, proprio un leggero mal di gola mi fa male un po' il petto, ma niente di, insomma, niente di allarmante, diciamo, vediamo domani. Vabbè, no, paura perché non ha niente, il petto probabilmente un colpo d'aria, cioè, credo che sia, provo da ridere, ci mettiamo problemi per tutte queste cose, buonanotte. Sì, ma infatti adesso non è, poi viene un semplice mal di gola, un semplice raffreddore, per essere sempre tutta Covid. Io per sicuro ho fatto il controllo, che anch'io ero così rocitico, e invece già è così. È pieno, è pieno. C'era una squadra di ragazzi l'altro giorno in farmacia, una ventina, proprio prima delle feste di Capodanno. Infatti i genitori dicevano, ma cosa facciamo? Tanto sono tutti pieni di impensati di virus, facciamogliela fare questa festa tutti assieme, ha detto. Belli, intelligenti, molto intelligenti. Mai. Mario, non lo dici né tu né Eugenio che così è, lo dice chi ti fa il tampone, se il tampone dice che sei positivo, è la variante Covid, non è un semplice raffreddore come stai dicendo tu. No, non hai capito, ho detto che ho un semplice mal di gola, magari adesso a chi gli piace un semplice raffreddore o un leggero mal di gola, non è detto che deve essere per forza Covid, capito? Adesso l'influenza normale non esiste più, cioè è per forza Covid. Magari è un colpo d'aria che ho preso, ma ma lo dici tu, lo stai dicendo tu, capito che è un colpo d'aria e che non è così, ma non funziona così. Questo Omicron è una variante Covid e sta attaccando tutti, anche quelli vaccinati, ok, anche quelli che possono essere immuni, anche quelli che hanno gli anticorpi come cazzo un cammello, sta attaccando a tutti, hai capito sì o no? Quindi il consiglio che io ti do di non giocarci molto, vai e ti fai un tampone, così il tampone ti dice se è un semplice raffreddore, come dici tu, oppure se hai il Covid, come abbiamo fatto noi tutti, perché anche mia figlia ha iniziato con un po' di tosse, un po' di mucco e va un Covid. Ho capito, non ci si è arrivato a quello che sto dicendo io. Ho detto che magari, adesso magari c'è un'influenza normale in giro, non è per forza Covid, Omicron, capito? Magari un colpo di freddo, il colpo lo faccio, senza alcun dubbio, perché al lavoro per forza lo devo fare. Però adesso non ci allarmiamo per ogni raffreddore che ci arriva, non è per forza Covid, non può essere per forza Covid, tanto adesso esiste solo il Covid, no, c'è anche il colpo d'aria, non esiste più. Non è vero, c'è solo il Covid, le altre influenze non ci sono più. Mannaggia la miseria. Scusate, ma io non riesco a capire una cosa, esiste solo Covid, punto interrogativo, non esistono raffreddori, non esistono colpi di tosse, ormai con questa storia qua hanno ammazzato il mondo, okay? Non è così, può anche essere non Covid, poi Claudio comunque buonasera, ben sentito, se mi stai ascoltando, può anche essere che, giustamente anche tu c'hai ragione, dici beh, con certezza non lo puoi sapere ovviamente se fai, però non lo so, c'è un piccolo allarme così per una roba del genere, facendo io. Ma lo chiamano così, questa variante, influenzare, perché è un sintomo influenzare come avevamo sempre. Lo chiamano così, ti tamponano, lo chiamano Covid. Anche per me io ho un semplice raffreddore, una semplice influenza. Però la chiamano Covid. E vai tu e dimostra il contrario. Ah, ecco, allora sì, su questo argomento ci credo, va benissimo, Sono d'accordo con te. Che la chiamino Covid, qualsiasi cosa che ti succede, sicuramente è indiscutibile. Però credo che, insomma, visto che io ho vissuto una vita, io ho 62 anni, mannaggia la miseria, e delle influenze ne ho avute, porco cane. E voglio dire, adesso da 2 anni in questa parte non esiste altro che questo Covid. Vabbè, allora, facciamo finta. È un'influenza che la chiamano Covid, allora mi sta bene. Ma non è che sia proprio Covid al 100%, come la spacciano loro, ecco, perché questo mi fa anche un po' arrabbiare, porco cane. Vai, come si chiama? Quell'altro che c'è, non mi ricordo più il nome, una milizia. Franco, ma infatti io sto dicendo a Eugenio, per non chiamarci Covid o influenza normale, vai e ci fa un tampone, così. Se fa il tampone ed è positivo si chiamerà Covid, se fa il tampone è negativo è una semplice influenza, questo è il significato. Siccome noi siamo tutti tamponati e ce l'abbiamo, e quindi si chiama Covid. Ok, io domani andrò in farmacia, mi farò il Covid, noi farò il tampone e vediamo un po'. Come stiamo dicendo lui, non è che per forza deve essere adesso, non è che ti blocchi un braccio e Covid baffuzza, cioè ci esistono anche altre influenze, altri colpi di freddo, non so. Stiamo dicendo tutti e due la stessa cosa. Tu hai ragione e io ho ragione. Tu dici che il sintomo che hai è un colpo di freddo e un'influenza. Lo dici tu. Ok, io sono d'accordo con te perché esistono anche quelle cose. Ma per toglierti il dubbio, come abbiamo fatto noi, che avevamo un sintomo influenzale, avevamo la febbre, avevamo dolori e quindi può essere anche una semplice influenza, abbiamo fatto un tampone rapido ed è Covid. Capito? Perché è positivo, il tampone dice positivo al Covid. Se il tuo tampone è negativo vuol dire che i tuoi sintomi sono solo influenzali. Mi capisci? O ti descrivo? Ho capito, ma infatti ti ho detto che domani mattina farò il tampone per essere più sicuro. Poi se c'è una bella infermiera è meglio farsi tamponare un po'. Vabbè, le infermiere vogliono tamponate, va bene, comunque, io te lo sto dicendo per te e soprattutto anche per gli altri, perché magari puoi essere anche contagioso verso i tuoi colleghi, tutto qua, quindi mia figlia resta a casa, eccetera, eccetera, va bene, sono in ascolto comunque io. Claudio, comunque hanno detto che questa Omicron qua non è come il primo ceppo di virus, è molto, molto meno pericoloso, tant'è vero che in Sudafrica chi ha scoperto questa variante qui ha detto che è molto più simile a un raffreddore che a una vera influenza, quindi secondo me non c'è neanche tanto da preoccuparsi. Chi l'ha scoperto chiaramente non sono io, ma è una che ci ha studiato sopra, è un medico virologo, per cui tanto di rispetto, ecco. Poi vabbè, quando arrivano qua in Italia sono molto più incazzate, perché qui è giusto che le pompano a non finire, però alla fine, insomma, dai, non lo so, vabbè, io poi i miei pensieri, per me è stata una gonfia, cioè una montatura fin dall'inizio questa cosa qua, perché in effetti le influenze sono sempre esistite tutti gli anni, i morti tutti gli anni ci sono sempre stati, i malati, milioni di ammalati, mi ricordo i telegiornali di vecchia data che dicevano l'influenza ha fatto uno sterminio di gente a letto, cassa mutuo a tutto andare, ospedali pieni, quindi non è la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere. Secondo me l'hanno politicizzata molto, poi vabbè, ripeto, ognuno ha le sue idee. Comunque Eugenio, fate il tampone che sappiamo, dacci notizie che siamo in ansia. Ma te posso fare una domanda, Mario? Ma tu il vaccino l'hai fatto? Assolutamente no, e non ne posso il muro, ma lo devono obbligare per farlo fare. Non solo mi devono obbligare, caro Claudio, ti posso garantire che io neanche firmo dei fogli per farmi fare il vaccino. È lo Stato che mi deve garantire che quella roba lì a me non mi succede niente, capisci? Poi dopo, quindi, io premetto, non frequento persone, vivo da solo, sto lontano da tutti, indosso una mascherina, seguo le regole, non rompo le palle a nessuno, hai capito? Però tu non mi devi obbligare a fare il vaccino. Capito? Se tu Stato vuoi che io mi faccia il vaccino, suonato nulla, Io ti dico via. Hai capito? E poi mi devi che non va. Io so di gente che ha fatto il vaccino che ha avuto dei danni. Poi ripeto, può essere un caso singolo, due casi singoli, eccetera. Io però al momento sono onesto, non mi fido, assolutamente. Quindi sei un Novax oppure non sei Novax e non ci credi, cioè non capisco ciò che stai dicendo. Ma forse ragioni così perché non stai più lavorando, sei in pensione. Se invece stavi lavorando e ti obbligavano a farlo, quindi tu cosa dicevi? Non vado più al lavoro perché non voglio fare il vaccino, com'è la situazione? Ma guarda, devo essere onesto, mi hanno licenziato per molto meno, sai, del vaccino. Io ho avuto un infarto a lavorare e siccome le mie mansioni non erano più espletabili, cioè della serie, non mi potevo più permettere di fare una mansione pesante, io facevo un lavoro molto pesante, ho avuto delle diatribe con l'azienda perché l'azienda chiaramente voleva che io facessi le stesse cose che facevo quando ero sano, alla fine mi hanno licenziato, mi hanno poi pagato perché chiaramente non era giusta causa, cioè loro mi hanno sbattuto fuori e hanno detto ma tanto, ascoltami, ti diamo questi migliaia di euro, poi sei a posto, ecco io, hai capito, avrei fatto la stessa cosa se stessi lavorando, li avrei mandati a fare in culo, perché sul mio corpo decido io, non decido lo Stato, e soprattutto non mi faccio ricattare da uno Stato che mi dice che io devo avere un Green Pass obbligatorio su un vaccino che non è obbligatorio, capisci dov'è la contraddizione di questa cosa qua? La gente non ragiona secondo me, perché tu mi imponi una cosa se non è un obbligo, allora tu mi devi fare un obbligo, ho ragione io, tu mi obblighi a fare un vaccino, mi sta bene, però dopo ne paghi anche le spese, le conseguenze, se mi succede qualcosa, capisci Claudio? Non so se hai capito come la penso, però voglio essere onesto e sincero, insomma, non credo che tu ti scandalizzi per questo. Assolutamente no, però il Green Pass se non ce l'hai non vai da nessuna parte. Quindi se a te ti piace vivere così in solitudine va bene, io condivido le tue idee, ma non le approvo, tutto qua, va bene. Bando alle ciance e ognuno è libero di fare quello che vuole, però se questo è quello che dobbiamo fare lo facciamo anche per incolumitare gli altri, io la penso così. Avanti Franco, riprendi tu e fai girare. Sì, intanto c'è stato un break, adesso lo mando avanti. No, infatti anch'io, appena ho saputo la notizia subito mi sono messo in quarantena. Io ancora non ero malato, cioè si è malata prima un'altra persona qua. Però, come diceva Claudio, per rispetto. Dai, avanti break. Kappa, dai, buonasera a tutti. Io ho la mia ex moglie e i due miei figli, tutti e due che stanno malissimo, tutti e tre presi dal coronavirus, tanto guacciambato. Io ho mia figlia che lavorando con tre vaccini l'ha preso, quindi quello che sto spiegando è questo Gianni. Mario non è d'accordo perché sicuramente è un vax e comunque i discorsi sono molto semplici e facili. Quindi anche mia figlia è a casa col Covid positivo, fatto il tampone, fatto tutto ed è positiva e aveva esclusivamente dei sintomi influenzali, quindi il discorso è che bisogna stare attenti, il discorso è che bisogna far funzionare la testa e non i piedi. Poi, a buon intenditore, poche parole. Dai, io rimango in quel rischio e non ho più voglia di parlare di queste cose, mi sono già rotto le palle, riprendi tu già ne fai girare. Allora, diciamo che chi è vaccinato lo prende in forma leggera, è più protetto. Uno che non è vaccinato va a finire in terapia intensiva. Avanti già. Sì, anche quello è... Ma... No, non sta uscendo. Devi schiacciare bene. Morti, sta male, proprio più. Sei uscito per almeno 10 minuti. Il tuo microfono c'è il Covid. Tanto il Covid c'è acqua, no il Covid, il Covid. Cioè, cotto, Usate probabilmente, guarda adesso se esco. Sì, un cuocuoma, Gianni, un cuocuoma. Adesso sì. Ho preso un po' male pulsante, dai, sono un po' cazzo, sto sempre andando e tornando portando medicinali, faccende. Noi a Ghisi non possiamo muoverci da casa perché tutti e tre sono col Covid. Ma tu te trecchi? Dai, comunque. Vabbè. Oh, sei da uno spasso, eh. Tu te trecchi, Gianni? Tua moglie, tuo figlio? E i miei figli, tutti e due, Emanuele e Marco, tutti e due. E il cane? Qua è. E poi un ovaggio, ma diciamo così. Ci sono due ruote, uno a portatore e una a Zazzari. E quelli che comunque. E una roba guata. Questa trappola di stato, vabbè. Ripeto, io ho il mio pensiero e nessuno me lo può cambiare. Ripeto il pensiero di stato. Guarda, ti puoi contagiare al Tai, dove? La Cina, assolutamente, per me. No, io me l'ho fatto, sono negato. Sì, immagino. Lo so. Mi sa che quest'anno è una questione di tempo, perché si sta allargando la macchia d'olio. Ogni giorno ne sento nuovi. E ripeto che non so. Gianni, faccia il canale 20. No, anzi, spero che abbia torto. Gianni. Perché altrimenti dico che l'avrò qua una quarantina. Gianni. Però quando parla la gente, siete pregati a non parlare là sotto, se non si capisce niente. Grazie, la direzione. Chiediamo scusa. Perché se tutti facciamo uso, è un casino. Infatti ho detto, ci sono due ruote, una a Sassa e una a Porto d'Orra. Uno ha detto, roda guarda burve. Andiamo e andiamo. Ho sentito anche un break da lontano. Mando avanti. Però lo sentite più voi, lo sentite piccolo piccolo, boh. Se io non l'ho sentito. Ah, volevo. Mimì, ho letto c'è. Avanti Paolo. Dai caro caro. Solo tu mi camminerti. Ma chi è? Ehi, sono vecchie le pisano. Tu te lo ricordi a Paoletto quello di Sassari, no? Avete parlato in due. Te lo ricordi a Paoletto Falcone? Ah, Falcone, il caro vecchio Falcone, certo che me lo ricordo. Non si può vedere più nessuno, certo. Allora senti. Ma riesco a capire cosa dice. Lo capivo tanti anni fa quando mi diceva di levarmi le calze, di levarmi i jeans. Sì, ti faceva già quella calzetta, dai. E lui era nel sabato. E lui era la domenica. Ma ce l'hai, lo c'è, in DVD ce l'hai. No, VHS. Ah, non l'hai trasformato ancora. Sì, tu via. È l'amante di Antonio Criseffa. Ah, così. Era un po' se c'è ancora. Mario, c'è ancora? Sì, sì, sono qua, sono qua. Dai, avanti, riprendi. Ma io non ho sentito l'amico di Sassari, Non lo ascolto, anzi, c'ho un po' di coerenza. Porca miseria. E non riesco a tirarlo fuori, ovviamente, come al solito, quelli che arrivano piano. Non c'è niente da fare, purtroppo è così. Eugenio, dai, riprendi tu di qualcosa, tienici. Dai, cosa vuoi mica? Perché io li sento, Mario. Cioè, a Luca riesco a tirarlo fuori piccolino piccolino e all'altro a Falcone manco parla niente. Non riesco. Falcone, alta l'antenna. Mi ricordo che avevo capito. Forte. Come oggi? Mi ricordo che anni fa arrivava forte, arrivava veramente forte. Ehi, sta usando un'antenna di marmo, mi sembra, autocostruita. Tanto ci sei. Riserva, ci sei. E te chi lo telefono in faccia? Che sì. No, avvelenato era proprio. Vabbè. Prova, vabbè. È modulare quando non senti la gente, è un casino. Dove sei? Non sei a casa tua, no? Luca. a Luca a casa era 25, quando arriva Luigi Basso a casa era 25. Qua arriva forte in ogni tutti e due modi, no? Forse è un po' più forte la casa sua, però è un bel segnalone anche qua. Adesso è scappato sicuramente. Qua quando ce la fa muovo lo Smitter. Ma vabbè, il più forte al momento è vabbè Mario. Il più forte al momento vabbè è Mario. Eh beh, vabbè, 9.20, 9.30, come? Sì, vabbè, ma lo fa testo. A 9 arriva. Lo fa testo e a Porto Torres. Anzi, ah vabbè, hai detto che c'è un antenino, però così, ho capito così. È un antenino piccolo, una boomerang mi sembra. Ecco qua. Una boomerang sul tetto, però dai. Io invece ho un antennone, però è a terra. E allora, no, io ho una serial keeper che si può mettere in terrazzo, di quelle con praticamente è una boomerang con altri due radiali in più, ecco. Però diciamo sta bene anche sopra il tetto. E un 5 di Rod, bla bla bla, qui c'è un, come si dice, un matchbox della ZG, quelli che andavano di moda 30 anni fa, che è un residuato bellico della mia vecchia stazione, per tenere a bada Ross, quindi così per, diciamo così, per tarare l'antenna sulla frequenza desiderata, almeno nell'ambito della 27. E quindi niente, tutto qua, poi c'ho un CRT 9009 come baracchino, con le bande laterali e vabbè, chi conosce l'apparato sa di cosa sto parlando e sono un baracchino, quindi niente di particolare, tutto lì, questa è la mia stazione. Ah, è un alimentatore switching della Nisei da 25 A, eccola qua, io sono già bello che spiccio. Poi c'ho portatile omologato, c'ho, vabbè, un ricevitore che non è omologato, ma quello lì è solo ricevitore, quindi questa è la mia stazione. Vai Eugenio. Sì, come fa la prova? Franco, quanto ti sta arrivando? Ho vergogna anche a dirlo. Perché? Perché i segnali sono tutti bassi qua. Porto a Torre, per esempio, adesso tu mi stai arrivando un segnale di 1, però il lago si muove, 1, 1.5 quando parli. La radio è buona, però si sente che spinge bene. Invece quando parla Mario il segnale è 0, e l'ascolto leggermente di radio, una radio di 2. Ho capito, invece adesso ho aumentato il segnale. Guarda un po', se prima era 1, adesso va a 2, a 3. Metti la portante fissa. Qua, ciao. A 2. È salito a 2, però quando parli tende a scendere, non so perché. Buonasera Eugenio. Ciao già, buonasera. Vabbè, sta a posto. Diciamo di no. Ce ne ho tutti e tre col coronavirus, Eugenio. Bianco un attimo. Già ti ho sentito, Ma sono vaccinati? Due vaccini ci hanno, tanti, stavano aspettando il terzo. L'importante è che non vada all'ospedale. Poi, guardate quello. Ma infatti, dai, speriamo che in una settimana risolva il problema. KK, qua sei 9.10, Eugenio. Meglio così, ma... Vabbè, sto uscendo con 10 watt, 12 watt. Io sono con 9 watt adesso, 9 precisi. Quanto sto uscendo di segnale? 8 qua arrivi. 8? Sì, sì, modulati 9. E guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, 9.30, ma... la radio faceva schifo. Abbassa l'ingresso. Ok, lo sto facendo. Guarda adesso, la radio fa schifo sempre. No, la radio è buonissima e arrivi 9.10 perfetti. La durata 9.20. KK. Mario, ma lui è appassato adesso, Ho capito, ma è anche andato, ho capito, ma abita una zona alta, Gianni, guarda Mario, adesso sono liscio liscio, guarda come arrivo. Allora arrivi un punto in meno di Eugenio. Tu dove ti trovi Mario? Centro Porto Torres. KK. Tu sei Santiago di 7 e la radio di 5. Insomma, con la mia stazione è già abbastanza, mi accontento, anche troppo. E io quando ti arrivo di segnale? Stai arrivando a 8 e radio 5. KK. Va bene, va bene. Oh già, tieni conto che lui ha un antennino, eh. Non ha un'antenna, lui ha un antennino. Che antenna c'ha? Mario. Kappa, signal keeper, non so se hai presente. È una di quelle antenne da terrazzo, però l'ho montata sul tetto con un palo di un paio di metri e io sto con quella lì. E vabbè, c'ho un po' di QRM in ricezione, ma in trasmissione non mi lamento, dai. Riesco a farmi sentire poco a poco. Kappa, va bene, dai, già, non c'è problema, dai. Ti ascoltiamo, io ti ascolto bene. Sì, sì, ma sono felice, guarda. Tanto più di così non posso pretendere adesso, eh. Sono convinto che se montassi una 50 anni sarebbe completamente diverso. Anche perché l'apparato, quello che ho, insomma, un po' abbassato. E così, niente. Il problema è appunto il QRM che c'è qua in zona, che non mi lascia, non mi lascia ascoltare i segnali, diciamo così, inferiori al 5, al 6, eccetera. Quindi faccio fatica veramente a volte a stare in frequenza. Ma buono signori, è giunto il momento di lasciarvi, perché sto risolvendo un problema col computer, non riesco a, evidentemente c'è i driver del wifi che mi stanno facendo infastidire, oggi la connessione internet non è proprio al top, quindi devo sistemare questa cosa qua, finché non la sistemo non lo mollo. Perciò vi lascio il vostro QSO, vi saluto, vi auguro una buona serata, è stato bello, a te di nuovo Eugenio, vai. Ciao Mario, ci sentiamo alle prossime se coincide, vai, ciao ciao, buona fatta. Ciao Mario, buona serata, dai, ci sentiamo. Ciao ciao, buona serata a tutti, ciao. A parte a chi so. Scusa, no, stavo parlando di verticale. Ciao Mario, scusa, alle prossime. Avanti Gianni. Io già salutato. Lo so, chi ci è rimasto? Boh, Luca, ci sei? Luca aveva chiesto Bianco. Chi è rimasto? Io. Quella era sottinteso, qualcun altro la Sassari, no? Va bene, dai. Io stavo parlando di verticale, quindi mi ho perso qualcosa. Avanti oggi. Ma niente, Mario è andato via. Salutato, è andato via. Niente di vabbè, niente. Stava fischiando, stava. Come? Ehi. Stavo iniziando a fischiare col mic. Sì, ogni tanto lo fa, non capito perché, boh. Non puoi smettere da solo. È una questione di massa, sì. Io nel capo le avevo messo un capo che partiva dallo spinotto del microfono e andava al microfono in modo che non facesse quel fischio, non lo faceva più. No, io non mi avvicino troppo il microfono, questo microfono lo fa, devo tenere almeno un palmo qualcosa lontano dall'apparato, se no innesca. Non lo deve fare, il mio non lo faceva per niente, dopo che ho messo il filo è andato troppo bene. Il filo l'ho fatto passare dentro il cavo del microfono, non si vedeva nulla, usciva solo un pezzettino davanti e un pezzettino dietro, boh. Ma questo non causa problemi, guarda. No, non causa proprio problemi, perché adesso l'ho smesso. Ormai è andato qua altro il macchinino, a quanto lo usi tu? Sì, infatti adesso l'ho abbassato di un millimetro e non lo fa più. Mario è proprio al limite. Invece ascolta Gianni, com'è il mio segnale rispetto agli altri giorni? Il tuo? Lo sai a memoria? Io adesso si fa lo scala, sì, oltre il più del 9.30. Io non sapevo cosa fare, ne ho fatto un'altra antenna, questa infatti la sto usando adesso. Praticamente una grimace però non c'ha né adattatore di impedenza e né condensatore su, nulla, proprio liscia liscia. E già sta scendendo bene, sì. Esce bene. E vabbè, bisogna. Tu l'unica cosa che devi fare è mettertela sul tetto, la volta che fai quello si apposta. E quello sarebbe un sogno, per adesso è un sogno. Però già questa è più semplice, è già più sottile. Si può mettere addirittura dentro la canna da pesca questa qua perché non c'ha roba ingombrante. Ma fa, ma non metti l'antenna sul tetto perché hai problemi col condominio? No, è perché non abbiamo uscita sul tetto, capito? Bisogna togliere le tegole e poi ci vorrebbe un tubo come si deve, quindi bisognerebbe fare un lavoro certosino, portarla nella parte più alta del tetto, dove non ce ne sono pali lì, e mettere un tubo solo per l'antenna, capito? Un lavoro, non dico complicato, però... Ci vuole più a dirlo che a farlo, l'ha fatto un amico mio, ha fatto partire il tubo dalla colonna che c'era nel sottotetto, ha messo le staffe lì, l'ha fatto uscire dalle tegole e poi ha messo le tegole finte, ha messo praticamente, non so, un mastice o qualcosa per non passare l'acqua attorno alle tegole, ha fatto il gioco. E qui bisogna mettere, non so, in un angolo la tasselli al muro, tanto c'è il muro entra chiti su, ho visto, e poi fare un foro leggermente più largo del tubo e poi siliconarlo, sigillarlo, dai, ti fai uscire fuori quello che ti serve, e gioco sarebbe fatto, dai. No, una volta che ci metti silicone non esci più. Ci metti silicone oppure ci metti catrame, ci metti un foglio di catrame e via, lo sciogli e fate il gioco. E la guaina liquida non devi sciogliere niente. No, infatti meglio no, catrame no, meglio silicone che è più elastico, ma il catrame si spacca dopo qualche anno. Avanti. C'è qualcuno che ha detto guaina liquida? Sì, sono stato io già, scusatemi. Avanti, avanti. Sì, guaina liquida. Sì, riprendi, ancora sì. Sì, sì, ho detto guaina liquida, invece di mettere catrame, silicone, ci metto un po' di cemento, quando il cemento è asciutto, guaina liquida. Hai sentito, Franco? No, no, già la conosco, ce l'ho anche imparato, perché da poco abbiamo fatto un lavoretto in azienda, me ne ha vantato un po' e l'ho messo da parte, pennello e tutto, sì, sì, va bene anche quella, però la guaina a volte si, dopo un po' si bisogna dargli una rinfrescata, dai, non trovo una paglia di pennellate, perché, non so, forse col sbalzo di temperatura, caldo e freddo dell'inverno, tende un po' a lesionare. Ma prima ci metti il cemento? Guainai! Perché c'è la guaina che va... 5 anni almeno devi aspettare. Ho capito. La guaina è più a 9 gradi. Più gradi resistono, più costa. E la mia credo che sia maresciallo, boh, non lo so la verità, non l'ho guardato. No, più che altro lo fa il movimento del vento, le antenne della televisione, diciamo, no, si muovono un po' lateralmente e tende a spaccare. Invece il silicone, ho visto che dura di più, perché rimane più flessibile, più elastico. Ma la silicone è un tubo d'acqua, non si muove manco per le scatto. Ma in teoria il palo non si dovrebbe muovere, si deve muovere solo l'antenna. Già atleta, già si muove, alla base poi alla fine il gioco se lo fa. Poi guarda, io quasi ogni anno le antenne qua le devo rifare, te le faccio rifare, dai. Perché tutti si lamentano che a volte che entra l'acqua dall'antenna, dal tubo. Perché è bucato su, dovete tappare su il palo. No, no, fin lì ci arriviamo, no, sono tutti tappati la parte alta, sì, sì. Fatto comunque ci sono tante teorie, c'è chi dice che i tiranti per dire non vogliono messi tanto in tira perché dice che il palo deve avere un po' di oscillazione, se no lavora solo l'antenna e potrebbe romperla. Ma io in teoria sono sempre tutto contrario ai tiranti. Vabbè, dipende come fai il lavoro. I tiranti secondo cosa metti ci voglio. Io ce l'avevo in campagna i tiranti, ma avevo 21 metri di pali. E allora li ho messi e c'erano i tiranti, perché i tiranti devono mantenere il tubo. L'antenna deve flettere quanto può flettere. L'ultimo tirato del tubo non va tirantato, perché deve essere flessibile come l'antenna. Bravo, quei tiranti non devi arrivare proprio sotto l'antenna. Ti devi fermare qualche metro prima, là. Esatto, come ho fatto io. Però tu dici sei contrario, io per forza ho dovuto mettere i tiranti perché io non posso fare il buco, ho dovuto mettere i tasselli, ho dovuto tassellarlo e mettere un tubo leggero, quindi questo tubo bene o male deve essere sostenuto da qualche cosa. Se metto un tubo d'acqua è normale che rimane rigido, ma un tubo di quelli telescopici, di quelli che vende Fusaro per intenderci, quelli lì vogliono tirantati per forza, se no lavora il tubo e spezza. Io ti capisco già, però in teoria quando fai un lavoro così che devi che superi i 3 metri o anche i 2 metri e mezzo, quei tubi lì non li dovreste utilizzare, dovreste quei pali telescopici, però esistono dei pali telescopici di quella razza lì che sono rinforzati, che al contrario di quelli da 30 euro ne costano 55, però sono, come spesso, sono il doppio di quelli che trovi da Fusaro. Ho capito, io non ho mai detto Fusaro per modo di dire, però io l'ho preso da piccolo. Vabbè, come vuoi, li conosco, ci sono quelli leggeri e quelli per, diciamo, un tantino più ferrati in materia. Da. Allora, io un palo che entra dentro il tegole, ok, che è qualche metro, sarà 3 metri, e poi flangiato un altro palo da 4 metri, flangiato a questo palo senza tiranti. Lì ho le antenne del televisore in più l'antenna del CB, sotto attiranti. Vabbè, ma hai messo il tubo là? Ho messo il tubo, un tubo d'acqua, eh.